conosco una lineatessa della recita drago vuole fare la recita con la nativit ma sul palco c'è un albero di Natale suya kizima è chiaro no? Vestito sì sì stella, la versione spagnola del nostro show natalizio abbiamo venduto sono anche dato un sacco di cosita cristiano con la nativit Kappa insiste invece per il albero e Babbo Natale di Drago dice c'è insisto Babbo io, Natale sì. Non c'è Babbo Natale perché dice nativi? Non lo so perché questi sono i limiti della tecnologia gli accenti non vengono letti perché l'Europa non esiste non per cui cercare di tradurre di vendere le cose che fai in Italia in Spagna non va sono due bisogna velocità. Tornare a fare le cose solo per la nazione a cui appartieni autarchia autarchia senti qua canzone Babbo Natale esiste blues con dos Babbo Natale malatol alce barra rena Rudolf la rena dal naso rosso descrive le condizioni in cui versa Babbo Natale chiedo asilo bentornati a Chiedo Asilo un saluto da K un saluto da Drago Drago oggi lo speciale crisi speciale l'abbiamo crisi. Lasciato stare è finito ormai però è la finito. Crisi no. Però la crisi no infatti quindi bisogna parlare di quelli che hanno la crisi dei capelli perché no, io no, sono ma... veramente io non riesco più a capire io ho tanti capelli in testa cioè non ne ho tanti però sono sempre gli stessi da anni sì, appunto, anni si vede tu i capelli li hai sì, un po' grigini ma li hai cosa c'entra ecco io quello che non capisco è quelli che hanno 30 anni sì. 35 così sì. Che stanno cominciando a diventare un po' calvi e che risolvono la questione tagliandosi tutti i capelli e facendo la pettinatura cosiddetta meno a male. Ginocchio ma meno ecco, male no, ma perché ma come perché ma cosa vuoi fare ancora tornare al riporto che quando non vai in riporto. Bicicletta no. Ci sono quei vecchi che sembrano che abbiano la bandiera che si alza vabbè, così quella è una vecchia, è un vecchio sistema per risolvere la cosa vabbè, tu abbiamo che visto idea che, hai? No, quella di Bersani ad esempio secondo me Bersani è dignitoso perché lui i capelli li ha in un certo punto sì. Della testa se sì. Li fa crescere normalmente ma... e dove non li ha non vabbè, li ma ha Bersani ha 60 anni di più ha già dato no con le femmine ah, perché tu dici che quando aveva 25 anni era tutto pelato ma lo so Bersani però i 30-35 anni di cui parli tu hanno sì. Ancora una vita sociale un'attività che riguarda insomma le loro relazioni con le femmine un altro sesso quindi, se hai il look bebè cioè ma completamente come look bebè? Sì, look bebè? Da bambino di un anno pelato a parte che ci sono dei bambini di un anno che sono pieni di capelli quindi... sono anche bellissimi hanno un sacco di successo con le donne sarà però insomma io non credo che questo look bebè possa essere considerato una cosa vabbè, ma matura adesso non devi li vedi in giro li vedi piaga, no? Dire, già c'è la crisi poi dire il look questi gay qui già non hanno ma no? Che gay ma sì. Vuol dire non hanno i capelli l'hanno inventati gay quel look lì ma non è vero come no? Poi tra l'altro si dice che chi non ha chi diciamo chi perde i capelli sì, è più perché li perde perché è più capito è più sì, c'è così. Il testosterone quella roba lì scuse, il progesterone sì. No, ti manca qualcosa c'è sempre qualcosa dall'altra parte ma un riccone avaro e vecchio dice ahimè così non va vedo nero nello specchio chissà come finirà oh la crisi ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metti in giro grossi fogli e vedrà che la crisi passerà. Oh, Drago, è quasi Natale, mancano sì. Tre giorni. Mancano tre giorni, manca anche un caminetto, l'albero con i regali, poi saremmo a posto. Invece siamo qui c'è in un la luogo, crisi, Drago, che caminetto, quali regali? Niente. Torniamo alle vecchie tradizioni sane di un tempo. A regalarci le castagne, cosa? Ma no, anche a raccontarci delle storie di Natale, come facevano sì. I nonni con i nipoti. Certo, la tradizione orale, si raccontava. Tradizione orale, si tramandava. Adesso tu fai il bambino, io faccio il nonno e ti racconto questa bellissima storia di Natale. Nenne, nenne, mira. Racconti una storia di Natale? Sì, l'ho appena detto. Allora, niente regali, una bella storia di Natale. Allora, c'erano una volta una mamma e un papà che volevano tanto avere un bambino. E quindi ci provavano. Cosa facevano per provarci? Non fare queste domande che siccome lo sai e vuoi che io te lo dica nipote allora ci provavano ma non ci riuscivano ma a un certo punto lei la mamma rimane incinta evviva. E dopo 9 mesi nasce un bellissimo insomma un bambino che purtroppo insomma è solo una testa È solo una testa e anche pelata. Testa? Senza gambe. Ma comunque, insomma, ci hanno provato tanto. Il loro bambino, dicono, vabbè, va bene così, ce lo teniamo, gli vorremmo bene tantissimo. L'amore, anzi, l'amore. Gli vorremmo più bene. Cos'hai, drago? Sei diventato improvvisamente adulto? No, la mere. Ecco. Allora, cosa succede? Questo bambino solo testa cresce, insomma, con un po' di difficoltà, però cresce, va a scuola, eccetera, eccetera. Che cosa? Dopo 8 anni, quando bambino testa ha compiuto 8 anni, succede che il dottore che l'aveva messo al mondo in ospedale fa nascere un bambino che è solo corpo. A questo punto si ricorda del bambino solo testa pelata e dice: presto, devo chiamare i genitori del bambino solo testa pelata e dirgli che è nato un bambino solo corpo e che potremmo metterli insieme, fargli, insomma, vivere una vita un po' più dignitosa entrambi. Li chiama, i genitori sono entusiasti, dicono: ma che regalo ci ha fatto, dottore, non vediamo l'ora di dirlo al nostro bambino. Corrono dal loro bambino e gli dicono: caro bambino nostro, tu non hai neanche idea di che regalo ti faremo questo Natale. E lui li guarda e dice: speriamo non il solito cappello. Cosa c'è? Ma cosa c'è? Ma è una storia terribile, nenne. Fucile ed occhiali, la, la, la. La stagnola dipinta di blu, lu, lu, lu. Sotto il cielo di mille colori, ri, ri, ri. Guardiamo gli angeli a testa all'insù. Shh, shh. Mentre tutto il presepio è assopito, presepio. Nel capanno vagisce, vagisce, nel capanno vage, vage, piange, nel capanno piange, ah, Gesù. Si capisce che è molto affamato, compra un crafter e portalo tu. E come l'anno scorso mettiamo anche il bagnino. Ma come? La nonna col bikini e 4 bambini che giocano a pallone. On, on, on. Che presepio è? Per quest'anno puoi cambiare, la, la, la. Il presepio fallo al mare, la, la, la. E coi lettini e gli ombrelloni, e con le sdraio, il barco, il flipper e il jukebox, col paiolo, la giara e le cioce, sulla spiaggia bruciata dal sole. I pastori c'hanno un caldo atroce, e gli ovini stramazzano al suo bene. L'arrotino che fa i palloncini, e il fornaio che vende che va. Due ubriachi che fanno i cretini. Eccoci qua! Dorme quell'altro è papà, e come l'anno scorso mettiamo la fontana. Gormiti, la Barbie befana, i ciccioli e le Winx, sing, sing, sing, sing, 6, 2, 1, X. E per quest'anno e cambia pure, metti tutte le creature nel presepe alla Hawaiana, dove caldo si sorride e splende il sol, dove caldo si sorride e splende il sol. Ma questo è un fa, ma splende da sol. In realtà era un si bemolle. Ah no, era un fa. Beh, ma giusto così. Lo smartphone. Per Natale regalateci degli smartphone. Esatto, dai, è l'ante antivigilia di Natale. Avete ancora cose, 2 giorni per comprarli. Allora, noi aspettiamo. Qui ce ne mandate via mail a chiedoasilo @radio24.it un sacco di smartphone. E noi li riceviamo volentieri. Allora, a domani. Scriveteci. No, no, che scriveteci? Mandate gli smartphone a chiedosilo@radio24.it. Sai che adesso puoi mandare anche le mail con l'oggetto. Gli allegati, sì, sì, sì. Allegato fisico. Tridimensionale. L'ha fatto vedere Beppe Grillo. Ah. Si è fatto mandare un fischietto. E gli è arrivato? Come no? Ma quello è un kazoo. Vabbè, un fischietto, un kazoo. Il principio è lo stesso.